si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori. L'appuntamento del sabato e della domenica a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca. Cerchiamo di raccontare le nostre piccole, grandi storie virtuose che aspettiamo anche da parte vostra durante la settimana sulla nostra pagina Facebook. Si può fare trattino Radio 24. E cominciamo subito con alcune delle notizie della settimana. Questa è bella, li hanno beccati. Bene sì, a Bari, né turbini, fannulloni al bar. Ora l'azienda chiede i danni. In sei finiscono a processo. Sono stati fotografati dai vigili urbani per un mese mentre bivaccavano in una enoteca. La polemica è poi scoppiata per delle foto, queste foto pubblicate su Facebook. L'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città ora chiede loro i danni. Si è costituita parte civile. Dite tutto quello che volete, ci vorrà il processo perché bisogna dimostrare che c'è stato l'assenteismo, tutto quello che volete. Ci sono però le foto che dimostrano in particolare uno di questi sei dipendenti che dopo essere entrato al lavoro timbrava il cartellino, tornava a casa o entrava anche in alcuni locali, anche altre persone entravano in bar e cose varie. La più gettonata era un'enoteca, invece di lavorare passavano la notte a sbevazzare a Bari. In sei adesso finiranno a processo, è una buona notizia perché insomma ogni tanto l'illegalità va perseguita, anzi andrebbe perseguita sempre perseguita penalmente, perché così, solo così si possono lanciare segnali rassicuranti per chi fa il suo lavoro correttamente. Un'altra notizia viene da Parma, è più che altro una segnalazione. Quando il bar è integrazione, il corso per persone disabili. Se avete una disabilità, se conoscete qualcuno che può essere interessato a Parma o dintorni, ebbene c'è un corso di formazione per fare il barman, l'antibarriera si chiama così, nasce dalla collaborazione tra il barman Vito Schiavo e la cooperativa La Bula, un sogno che diventa realtà. E allora questa è una bella segnalazione, sempre come dire, segnalazioni per uscire dalla crisi, per trovare un lavoro o quant'altro. Un altro corso, qua siamo in provincia di Sondrio, per pizzaioli. Siccome il signor Vincenzo Muglia si è accorto che in Valchiavenna è difficile trovare pizzaioli preparati, allora lui ha organizzato un corso, lo sta organizzando proprio in questi giorni, e chi fosse interessato a San Cassiano si può presentare dal signor Muglia alla sua pizzeria a fare il corso e poi magari si riesce a trovare lavoro e ad aprire una pizzeria. Queste alcune delle segnalazioni, ripeto, aspettiamo le vostre durante la settimana sulla pagina Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24. E poi non dimenticate la nostra segreteria telefonica e un messaggio: salvare l'Italia in un minuto. La mia opinione è che sarebbe l'ideale toccare definitivamente il fondo, uscire dall'euro insieme alla Spagna, alla Grecia, il Portogallo e ricominciare tutto da capo per poter avere la possibilità di veramente di riprendere una situazione che oramai è diventata una cancrena, perché non penso assolutamente che andare avanti così possa essere risolto nulla. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. E lasciami gridare, lasciami sfogare. Io senza amore non so stare, io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti di La L'abbiamo dedicata alla signora che ha lasciato il messaggio in segreteria telefonica, che sogna di ricominciare una vita senza l'euro. Un tema questo che ritorna più che una ricetta per salvare l'Italia, un auspicio secondo lei, ma secondo anche altri, ricominciare senza l'euro. Ma ricominciare anche riguarda il primo tema di oggi, perché si può ricominciare una vita dopo essere stati condannati per reati grandi e piccoli, e passare attraverso il carcere può non aiutare a ricominciare. Passare attraverso pene riparative invece è dimostrato che aiuta a ripartire, c'è meno recidiva, cioè si commettono meno reati una volta che si esce dal carcere o attraverso queste pene riparative. Andiamo a Brescia, dove questo accade e dove si sono specializzati in qualcosa che adesso andremo a sentire. Ne parliamo con Alberto Romano, professore di criminologia a Brescia e presidente dell'associazione Carcere e Territorio di Brescia. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Siete stati in grado in 2 anni, da quando c'è anche una legge che sostiene tutto questo, di far partire questi percorsi di pene riparative. Come siete riusciti a farlo e di cosa si tratta? Sì, innanzitutto mi scuso per la precisazione di ordine personale, mi chiamo Carlo Alberto, altrimenti possono pensare sia qualcosa. È giusto, come il re tra l'altro. Dunque, la normativa sui lavori di pubblica utilità e quindi una proposta fra quelle della giustizia riparativa è esistente da tempo nel nostro paese, è iniziata nel 2000 con il decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace. Di fatto è stata un po' quiescente, applicata con una certa ritrosia da parte dei magistrati, le comunità non hanno reagito con l'interesse che invece avrebbe meritato, si è arrivati fino al 2010 con la legge 120 che ha introdotto 2 sostanziali modifiche al codice della strada e per la precisione all'articolo 186-187, cioè la guida in stato di ebbrezza e la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo. Perché è giusto precisarlo subito, stiamo parlando in particolare di persone condannate per reati sulla strada, sì, e cioè per guida in stato di ebbrezza e per uso di sostanze stupefacenti, per semplificare. Esatto, si incorre in sanzioni pecuniarie anche nel carcere, invece sì, a Brescia state sperimentando in questi 2 anni con successo almeno 200 casi, che cosa? Si va a tinteggiare la casa comunale, si va a ripulire le strade, si va a fare tanti lavori utili. Si va incontro ai bisogni della collettività, evidentemente ci deve essere una comunità in grado di censire i propri bisogni, di esprimerli attraverso le forze dell'associazionismo, del volontariato oppure degli enti locali, e attraverso l'espressione e la rappresentazione di questi bisogni il giudice può condannare la persona che ha commesso questi reati anziché a un passaggio in carcere o a una pena pecuniaria, ad attività non remunerata a favore della collettività. Devo precisarle che questa cosa ovviamente vale su tutto il territorio nazionale. A Brescia l'abbiamo particolarmente implementata perché abbiamo trovato una modalità di raccordo fra il tribunale, cioè tra l'autorità giudiziaria e il territorio, che ne ha favorito l'applicazione. Eccoci di nuovo in diretta con Carlo Alberto Romano, professore di criminologia, presidente dell'associazione Carcere e Territorio di Brescia. Stiamo parlando della giustizia riparativa che in questa città trova una felice applicazione. Professor Romano, quello che le vorrei chiedere, io prima nell'introduzione ho detto un po' goffamente, ho cercato di spiegare come la recidiva sia minore quando si passa attraverso percorsi come quelli che organizzate voi, curate voi. Ce lo spieghi meglio e perché questa è una buona notizia? Certo, volentieri, ma per il vero lei non l'ha descritta goffamente perché ha immediatamente individuato la realtà dei fatti, cioè i percorsi riparativi e comunque i percorsi sanzionatori in genere, laddove siano affidati soltanto alla capacità del carcere di rieducare, generano una qualche difficoltà. Il carcere, lo sappiamo tutti, è in una situazione di fibrillazione, ha un numero di detenuti assolutamente inadeguato per le proprie risorse, per le proprie capacità, che pure gestisce nel migliore dei modi, e questo evidentemente consegna o rischia di consegnare coloro che escono dal carcere senza aver fatto altri percorsi di prova alla recidiva. Invece sostituendo o il percorso carcerario nella sua interezza o parte di questo percorso ad un inserimento già a partire dal momento di dover scontare la condanna alla comunità, con dei percorsi di giustizia riparativa, con dell'attività non remunerata a favore della collettività o con delle misure alternative al carcere, ma che siano dense di contenuti, si abbassa il livello di recidiva, che scende in modo sostenuto, perché i dati presenti in letteratura ci dicono che la recidiva fuoriuscendo dal carcere è superiore al 60-70%, poi non c'è sempre concordanza fra le diverse fonti a cui si può attingere, ma scende, e su questo c'è invece piena concordanza, intorno al 20-25% per i percorsi comunitari affidati al territorio, e questo è un dato che depone per la sicurezza di tutti. Ecco, perché insomma, cari ascoltatori, non è che insomma, questi sono dati importanti. Se si abbassa la recidiva, se attraverso questi percorsi persone escono e sono meno propense a ripetere gli errori che hanno già commesso, questa è una buona notizia, perché altrimenti sa, c'è quell'idea per cui dice: ma vanno al bar anziché stare in carcere, fanno una passeggiata e hanno risolto. No, non è così, anche perché ci dica anche perché a volte può essere più faticoso intraprendere questi percorsi che non pagare una multa, per esempio. Ma guardi, facciamo l'esempio proprio della pena pecuniaria per i lavori di pubblica utilità di cui parlavamo poc'anzi. Per una persona che è mediamente dotata dal punto di vista economico, tutto sommato affrontare una pena pecuniaria può essere un impegno non particolarmente gravoso. La si paga, subito dopo si dimentica il senso del castigo a cui si è andati incontro e magari dal giorno dopo si è pronti a ricominciare con il comportamento sbagliato. Se invece la sanzione è perdurante nel tempo e mette in contatto chi ha commesso la fattispecie delittuosa, come può essere una guida in stato di ebbrezza, con le possibili vittime di un percorso di come quello a cui è andato incontro questa persona, cioè ad esempio delle persone traumatizzate da incidenti stradali, persone che a causa di incidenti stradali hanno visto la loro vita stravolta, questo è senz'altro più rieducativo e consente alla persona di fare maggiormente mente locale sul rischio del proprio comportamento. Ecco, insomma, i lavori che si possono fare, abbiamo detto, appunto, imbiancare, ripulire le strade, lavori di utilità, accompagnare gli anziani e quant'altro. Altri esempi, esatto, altri esempi li ha fatti lei, e dipende anche dal tipo, appunto, di reato che si è commesso. Si può stare anche nelle associazioni dei parenti delle vittime della strada e quant'altro. Abbiamo detto che avete realizzato quasi 200 casi in 2 anni, però forse una cosa che non abbiamo detto è che per via di una certa lentezza dell'amministrazione, della burocrazia, ancora una volta ci sono domande di persone che vorrebbero fare questi percorsi che non si riesce a rispondere. È vero, è così? Come si può uscire da questa cosa e fare ancora di più? È nuovo, va ben oliato e soprattutto va ben conosciuto. Paradossalmente abbiamo uno strumento estremamente innovativo che non è pienamente applicato, a volte anche per la carenza degli stessi operatori del diritto, quindi non tanto i magistrati, che ovviamente conoscono la normativa, ma che a volte non trovano interlocutori adeguati per poterla applicare scientemente e convintamente. Gli stessi avvocati a volte su questo specifico strumento non hanno una piena dimestichezza, una piena disponibilità. È opportuno che invece ci sia un'informazione corretta, una divulgazione della conoscenza su questo tema, per permettere a quante più persone e in tempi possibilmente brevi, perché ricordiamoci che la pena è tanto più efficace quanto arriva in tempi più ristretti dal momento da cui si è commesso il fatto al momento del castigo, per permettere a più persone di accedere a questo strumento che, a mio modo di vedere, è il futuro della giustizia. E allora, insomma, grazie anche a lei, professore Carlo Alberto Romano, presidente dell'associazione Carcere e Territorio di Brescia. Grazie e buon lavoro fuori dal carcere. Grazie anche a lei e a tutti gli ascoltatori. E insomma, la notizia è questa: in meno di 2 anni 200 casi di giustizia riparativa in questa città. Una buona notizia, il perché lo abbiamo appena spiegato. Adesso invece saliamo su un autobus. Let's go party. When people get too hot, when they're doing the hustling bus stop. E saliamo su un autobus un po' particolare, un autobus, gli autobus, tutti gli autobus a dire la verità di Bari, che avranno la particolarità di trovare, di trovarci sopra dei moralizzatori, cioè dei personaggi, adesso cercheremo di capire qualcosa di più, che incontreranno i ragazzi per sensibilizzarli sul bene pubblico e sul rispetto della legalità. Ora, di progetti a sfondo sociale io ne ho sentiti parecchi, però questo francamente mi mancava. Francesco Muciaccia, responsabile di San Paolo Social Network di Bari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ci spieghi un po' che cosa volete fare con questa iniziativa? Se mi permette, fare anche un cappello per capire da chi siamo, da dove veniamo, diciamo così. Il progetto si chiama San Paolo Social Network ed è finanziato da Fondazione Con il Sud di Roma tramite un bando che si chiama Sviluppo Locale del 2009. E la cooperativa Esedra è la cooperativa capofila che realizza il progetto materialmente. E una di queste azioni, appunto, è Via Col Bus, quella di cui parliamo oggi, una delle 50 azioni realizzate dal progetto. In questo caso, diciamo, voi avete utilizzato il termine moralizzatori, che è carino, è carinissimo. Questo è quello che ho letto su alcuni articoli di stampa locale che riportavano la notizia. In realtà si tratta di operatori, quindi di ragazzi, di quattro operatori che a turno e a rotazione salgono sugli autobus, in particolar modo quelli che collegano il quartiere San Paolo, il quartiere su cui noi operiamo, e il centro cittadino. All'interno dei bus incontrano i ragazzi, in particolar modo all'uscita delle scuole, quindi un target, diciamo, di studenti di scuole superiori in particolar quindi modo. Quindi sono ragazzi che incontrano ragazzi. Io mi ero immaginato invece dei vecchi saggi moralizzatori che arrivavano altro, lì. Ci mancherebbe altro, anzi molto spesso avviene addirittura moralizzazione al contrario, probabilmente. No, scherzo, però diciamo l'attività è molto interattiva, c'è una grande partecipazione con i ragazzi e, diciamo, un rapporto di diretto, sincero anche, assolutamente. Ma il progetto sta per partire o avete già qualche... È partito giovedì scorso e il primo giorno, diciamo, ha avuto subito un grande successo, addirittura non ce l'aspettavamo. Sì. C'è stata una grande partecipazione da parte dei ragazzi, sia, diciamo... No, ma io non ci credo, però scusi, io non riesco a figurarmi sull'autobus i ragazzi che stanno lì a ascoltare la musica, a fare cavoli loro. Arriva uno che dice: no, senti, vorrei parlarti del bene pubblico. Cioè, francamente, no, ci mancherebbe. Allora, l'azione, diciamo, è finalizzata alla promozione della legalità, nello specifico all'acquisto del titolo di viaggio e al rispetto del mezzo pubblico e del bene pubblico in generale. Ah, quindi si comincia, diciamo, chiedendo il biglietto intanto per presentarsi. Sì, ci mancherebbe altro. Quello è il primo, diciamo, il primo passo. Però è vero anche che abbiamo diciamo una serie di specchietti per le allodole, chiamiamoli così, nel senso che i nostri operatori salgono sul bus con degli iPad, per esempio, con dei supporti tecnologici tramite i quali interagiscono con i ragazzi. Ah, c'è l'esca, cioè uno tira fuori l'iPad, i ragazzi arrivano e a quel punto tac, scatta la trappola sulla legalità. No, sto scherzando naturalmente, perché diciamo, capiamo non le non finalità trappola, del progetto. Non si tratta di una diciamo ramanzina vera e propria, ma è una interazione. Questo avviene tramite il coinvolgimento dei ragazzi nella formulazione di alcuni slogan e di una campagna di comunicazione finalizzata proprio alla sensibilizzazione dell'acquisto del titolo di viaggio e rispetto del mezzo pubblico. In che modo? Tramite il supporto tecnologico, ma anche facendo una specie di piccola competizione, mettendo cioè in palio tre abbonamenti annuali per studenti, ovviamente per i mezzi pubblici, e quindi coinvolgendo direttamente i ragazzi in questa attività, ma soprattutto poi l'AMTAB SPA, che è la municipalizzata dei trasporti, farà sua questa campagna realizzata dai nostri operatori in collaborazione con i ragazzi, ovviamente, e la proporrà sia sui mezzi, sia presso le pensiline vicino quindi alle una sorta alle di fermate. Concorso che vedrà premiata l'idea migliore. Una curiosità, quanto tempo andrete avanti? Poi, insomma, una volta che la cosa si viene a sapere, vabbè che Bari è grossa, però mi immagino già i ragazzi, hai visto quelli del programma Social Network, San Paolo Social Network, che ci vogliono parlare della legalità. No, scherzo, naturalmente il fatto che si diffonda il messaggio è un fatto positivo, perché poi alla fine quello che conta è proprio questo, il messaggio. Una campagna originale, questa di Bari, devo dire la verità. Io pensavo che nell'epoca dei social network si passasse tutto attraverso internet, e invece voi avete scelto una strada diversa. Sì, noi diciamo, privilegiamo il rapporto diretto, anche quello personale. Ci chiamiamo social network perché realizziamo un social network che è virtuale, perché siamo presenti ovviamente online e sui social network ovviamente, ma ovviamente per conquistare poi anche la fiducia della popolazione locale abbiamo avviato diciamo ormai da tempo un rapporto diretto con la popolazione, in particolar modo includendola anche nelle scelte, nella progettualità e quindi diciamo avendo un rapporto diretto con loro e proficuo anche. Benissimo, buon lavoro. Allora, grazie, grazie a voi da Bari, San Paolo Social Network. Questa era la notizia da Bari. Adesso invece allarghiamo le frontiere. La notizia si può fare nel mondo, la più bella della settimana. Sentiamo che cosa siamo andati a scovare. And the winner is... Il premio di questa settimana va negli Stati Uniti, a San Francisco. Da quasi 11 anni per le strade della città californiana si aggira un uomo che trascina un carretto colorato con una macchina da cucire. Si chiama Michael Swain e la sua missione è quella di rammendare e riparare gli abiti degli abitanti di San Francisco. Gratis! Il suo progetto si chiama Free Mending Library, libreria gratuita del rammendo, ed è aperto a tutti. Nel corso del tempo ha attirato una vera e propria comunità di cittadini, clienti e volontari che si riuniscono il 15 di ogni mese. Danno una mano ed è un ottimo modo per attaccare bottone. Il progetto della Free Mending Library non è coperto da copyright, anzi, il suo ideatore spera che possa prendere piede in tutte le città del mondo. Siamo abituati a un mondo in cui nessuno fa niente per niente, ma questo piccolo progetto suggerisce una visione differente. Avevamo dimenticato i mestieri come il cucito, in cui le nostre nonne erano tanto esperte, e forse abbandonarli è stato un errore. Beh, questa storia dimostra che metterci una pezza si può fare. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, cronache da un paese migliore. Oggi siamo partiti dal caso di successo a Brescia di giustizia riparativa. Ti mandano a tinteggiare le case del comune o accompagnare gli anziani che hanno bisogno, invece di stare lì a perdere tempo in carcere. In 2 anni 200 casi ed è andata sempre bene. Poi siamo passati da Bari, dove il San Paolo Social Network, attivo in questa città, ha deciso, per fare una campagna di sensibilizzazione sulla legalità, di mandare dei moralizzatori sull'autobus a incontrare e a parlare coi ragazzi. Vedremo questa curiosa e originale iniziativa come andrà a finire. Noi aspettiamo durante la settimana le vostre segnalazioni sulla nostra pagina Facebook, si può fare trattino Radio 24. Adesso è il momento delle previsioni economiche per il futuro. Avviso ai naviganti. Si avvisano i signori naviganti a vela e motore che fossero bloccati in acque stagnanti o infestate di squali che le turbolenze degli ultimi tempi, provocati da una zona di alta pressione fiscale, verranno presto mitigate da un'insolita ondata di solidarietà e fantasia che porterà credito ed equità su tutta la penisola. Almeno, speriamo. La canzone di Biagio Antonacci, perché l'avviso ai naviganti di oggi ha a che fare con il lavoro. Sappiate, cari ascoltatori, che c'è un settore nel quale il lavoro si trova, lavoro che viene offerto, ma non ci sono abbastanza persone che sono disposte a lavorare. È il settore dell'ambiente, dell'ambiente. Adesso vedremo di capire meglio di che cosa si tratta. Gli annunci parlano di lavori duri, ma ben pagati, e anche qui vedremo di capire quanto ben pagati. Iniziamo subito a salutare Enzo Palma di Palma Ecologia di Pistoia. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, voi avete una florida azienda che si occupa di smaltimento rifiuti, di pulizie, adesso ce lo spiegherà lei, di alto livello. Avete già molte persone che lavorano per voi, però vorreste averne ancora di più, ma la vostra domanda, la vostra offerta di lavoro è rimasta inevasa. Che succede? Sì, diciamo che l'azienda nasce come sempre azienda di servizi e nel lungo andare degli anni, nell'ultimo trentennio, si è ampliata e sviluppata sempre nel crescendo, seguendo le esigenze e le richieste delle problematiche dei nostri committenti, che varia dai privati agli enti pubblici. Ecco, e la difficoltà che abbiamo è nel reperire il personale. Reperire il personale in che senso? Perché noi facciamo la richiesta, in questo caso specifico, di patente categoria E, ADR, che è per il trasporto dei rifiuti, sì, pericolosi, e il CQC, che è la certificazione qualifica conducente. Però cosa succede nel caso specifico? A monte di tutto viene fatto un colloquio dove viene spiegato passo dopo passo come funziona l'azienda, cosa ricerchiamo, cioè disponibilità, perché lavoriamo anche in un campo di emergenza, di pronto intervento. Ecco, dobbiamo, sì, garantire. Ci dica qualcosa di più di quello che fate concretamente, ambiente, smaltimento rifiuti, ci faccia qualche esempio. Sì, un esempio pratico può essere uno sversamento causato da un incidente, da un'auto cisterna, sì, faccio per dare un esempio. Bisogna intervenire urgentemente. Sì, del carburante, e noi in tempi brevissimi dalla chiamata del nostro committente dobbiamo arrivare sul posto con macchine e mezzi idonei. Quindi non soltanto si fa un lavoro sporco, come si suol dire, anche in pratica, ma poi ci si deve svegliare anche di notte spesso, perché quando c'è l'emergenza bisogna scattare. Quindi... Certo, nell'imprevedibilità dobbiamo essere il più efficienti possibili, perché legata alla nostra efficienza c'è l'arginare l'inquinamento e di contenere il più possibile e di fare un lavoro fatto come deve essere fatto a regola d'arte. Ecco, a fronte di tutto questo, però, immagino già gli ascoltatori che diranno: sì, vabbè, un lavoro duro, un lavoro sporco, ben pagato, ma quanto ben pagato? Perché si sa che poi nel mondo del lavoro vale la legge della domanda e dell'offerta. Certo. Ci può fare un esempio di... Un esempio pratico può essere... che può andare, può variare dai 2.000 euro fino ad arrivare ai 3.500 euro, 4.000. Beh, insomma, non so voi, cari ascoltatori, però non è che faccia proprio schifo uno stipendio di 2.000 o 3.000 euro. Quindi parliamo effettivamente di stipendi che sono interessanti. Nonostante questo, ora io non vorrei insistere su questo aspetto, sembra che facciamo lo spot alla Palma Ecologia di Pistoia. Tra l'altro voi siete operate anche in altre città, perché appunto vi state allargando. Però a fronte di questo ci sono posti di lavoro che non riuscite a riempire. Quindi, cari ascoltatori, fatevi avanti, se no dov'è questa crisi? La crisi c'è, ma non si vede, perché se ci fosse veramente bisogno di andare a lavorare, io credo che un'offerta come la vostra non dovrebbe rimanere così, insomma. Però mi dica qualcosa di più, è proprio una questione che i giovani non hanno voglia di lavorare, cosa che si sente dire ogni tanto, saltuariamente, oppure manca qualcosa nel vostro settore, voi avete delle richieste da fare al governo in termini di incentivi o che cosa? Ma quello, penso, nelle condizioni come siamo noi, sono tantissime altre aziende, per quanto riguarda agevolazione o meno, che vengono a mancare, ma la cosa in questione è principalmente che noi vediamo è proprio la voglia, la volontà di voler fare un'attività, cioè realizzarsi, sì, e calarsi dentro il lavoro, e sembra proprio che manchi proprio, ecco, la cultura, una formazione a monte dove bene o male, sia ai giovani o ai meno giovani, viene spiegato, ecco, il mondo del lavoro un po' più in modo approfondito, un po' più a 360 gradi, perché ecco, in tempi di crisi chi ha la volontà, magari non ha la possibilità, ma vorrebbe fare qualsiasi cosa, ma non riesce. E alla fine, alla fine la solita, sì, cosa si ripercuote, perché ecco, c'è una cultura di abitudine di essere, ecco, stazionario. Poi quando arriva la reperibilità, no, dice, ma oltre le mie 8 ore, ma insomma, si tirano indietro. Allora l'azienda forma, spende delle risorse nel formare il personale e poi deve iniziare di nuovo da capo, perché vengono tirati le mie in barca, sì, proprio anche per una questione di abitudine, cioè della serie, se il sabato, ma no, io non ci sono. ma proprio ecco, una questione di volontà personale. Quindi insomma, potremmo anche dire che in un contesto nel quale forse non abbiamo ancora toccato il fondo, perché se l'avessimo toccato dal punto di vista della crisi, del bisogno veramente di un lavoro, allora tutto questo non dovrebbe succedere. Cioè insomma, diciamo che tra i disoccupati c'è una parte di persone che ancora si sente di poter ancora scegliere tra andare a fare un lavoro che non gli piace o stare a casa. Stando a casa scelgono, però a questo punto diventa una scelta. Non so se il giudizio secondo lei è troppo drastico oppure se mi sembra di capire che lo condivide. È una questione poi di scelta, ma noi d'altra parte ecco, dobbiamo guardare avanti e non ci possiamo permettere di fermare, siamo sempre alla ricerca. Come fate però poi alla fine per trovare queste persone? Avete scatenato dei cacciatori di teste in giro per l'Italia? Oppure... No, è sulla legge dei numeri. Li proviamo, vengono formate le persone e poi per fortuna nella parte che continua sempre a lavorare con noi si insediano e si trovano bene, perché il lavoro varia, è proprio un ventaglio di servizi e piace. E altri che vedono che non è la scarpa del proprio piede, ecco, però ecco, è un flusso, è un fiume di persone che nel passaggio rimane chi veramente ecco apprezza, piace fare. Only the brave, solo i più coraggiosi. E va bene, insomma, noi il nostro avviso ai naviganti oggi l'abbiamo dato, cari ascoltatori, disoccupati e non, sappiate che in questo settore, in particolare adesso a Pistoia si trova lavoro, ci sono ancora dei posti liberi nel settore dell'ambiente, l'azienda Palma Ecologia, l'ho ridetto così tante volte qualcuno si facesse vivo. Grazie a voi da Pistoia per averci raccontato la vostra storia. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare, puoi amare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Ed eccoci con l'appuntamento della domenica a quest'ora. Come è andata a finire? Andiamo a ricercare notizie, annunci, proclami di qualche tempo fa. Se ne fanno molti, anche belle iniziative, poi però il tempo passa e la gente si domanda ma saranno riusciti nel loro intento? Come è andata a finire? Torniamo a Palermo qualche mese fa, eravamo a gennaio, avevamo dato l'annuncio dell'inizio dei lavori per un nuovo parco in città, un parco che nasce anche in un luogo simbolico a pochi passi dall'ultimo covo di Totò Riina. Adesso ritroviamo Giovanni Callea, esperto di marketing tra i promotori di questa iniziativa, e gli chiediamo dopo un po' di tempo come è andata a finire. Il parco adesso c'è o non c'è? Rullo di tamburi. In realtà abbiamo letto la notizia, il parco è inaugurato. Callea. Sì, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, il parco ha inaugurato. Oh, e finalmente, già qua si parte bene, perché uno dice... Sì, è stato inaugurato, work in progress, quindi diciamo, sono state attivate l'area gioco per i bambini, diciamo, il percorso fitness, ma soprattutto è partito un bel percorso di partecipazione. Tantissimi giovani, volontari, universitari si sono impegnati in questa iniziativa a supporto anche delle istituzioni che hanno fatto in questo momento di enorme difficoltà finanziaria e hanno fatto la loro parte mettendo lo spazio a disposizione. Lei si trova al parco adesso con qualche bambino di fianco? Ah, ecco, appunto, si sente. No, raccontiamo anche, perché uno dice un parco è un parco, cosa c'è da parlare di un parco? Però siamo a Palermo, siamo in un territorio che si trova vicino a quello che simbolicamente è rimasto alla storia come l'ultimo covo di Totò Riina. Quindi c'è una genesi, perché tutto questo parte da un'iniziativa che la vede lei proprio come protagonista, una mobilitazione di cittadini per recuperare questo spazio e dargli nuova vita. Adesso ci siamo, però raccontiamo anche come ci siamo arrivati, perché è istruttivo, una bella storia. Sì, io come dico sempre, diciamo, un percorso diciamo, molto lungo comincia col primo passo. In realtà questo per noi è il primo passo di una cosa che deve andare oltre. Tutto inizia un paio di anni fa con io sono abito vicinissimo a quest'area e ho lanciato quasi un urlo solitario in un blog dicendo ma è una follia che non diventi un parco. A questo che sembrava inizialmente veramente un grido disperato ha fatto seguito invece l'adesione di tantissimi giovani, cittadini, eccetera, finché non si è preso carico della cosa anche l'università con il Dipartimento di Architettura che ha cominciato a curare la parte di progettazione. Nel frattempo è partita un'iniziativa per la raccolta di firme su carta per chiedere una variante urbanistica, sono state raccolte più di 8.000 firme, tra l'altro sono arrivate da tutta Italia, sono state spedite, insomma è stato anche questo un bel movimento. Un anno fa il proprietario dell'area, la regione, decide di intervenire e quindi mette a disposizione lo spazio e pochissime risorse. Con quelle risorse e la volontà di tutti quelli che hanno collaborato si sono iniziati i lavori che hanno avuto uno stop durante l'inverno perché è stata rinvenuta una bomba. Questo era un obiettivo militare durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata trovata una prima bomba, è stata necessaria intervenire con una bonifica. Se no sarebbe stato troppo facile, insomma, se non c'era mancava solo la bomba, insomma. Che è stata trovata, poi durante la bonifica sono state trovate altre due, sono state fatte brillare e quindi finalmente si è potuto iniziare. Devo dire che si è scelto, e io condivido la scelta, di aprire intanto l'area così com'era con la parte bambini, c'è ancora moltissimo lavoro da fare. E quindi diciamolo, perché se no magari qualcuno ci sente, passa di lì, vede che ci sono ancora lavori in corso, dice ma cosa dite? Il parco non è ancora finito, manca ancora, dovremmo fare un altro appuntamento a come è andata a finire, però per ora noi prendiamo atto che c'è una storia, una bella storia che è a lieto fine, un'altra, viene da Palermo, il Parco dell'Uditore. Io ringrazio anche Giovanni Callea e toccherà tornarci per vedere se i lavori saranno finiti, ma insomma l'importante, chi ben comincia è al di là di metà dell'opera. E io ringrazio tutti, Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Valeria Bernardi che era oggi in regia. Ci ritroviamo sabato prossimo. Io proporrei un'Italia ZTL o eventualmente soltanto con mezzi elettrici, dove ogni forma di trasporto dovrebbe essere fatta su veicoli pubblici come gli autobus, i treni potenziati, le persone che verrebbero disoccupate dalla Fiat perché in Italia non venderebbero più macchine potrebbero essere girate a fare gli autisti, a fare manutenzione, a fare mille altri lavori potenziali che si dovrebbero creare. E lo stesso Fiat forse non dovrebbe neanche chiudere perché dovrebbe rigirare i propri stabilimenti per creare auto elettriche e per convogliare tutte le ricerche nell'indotto. Quindi un'Italia ZTL dove si gira solo a piedi, grazie, in bicicletta. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.